Now continue with the next part of the dialogue. Buonasera. Buonasera, mi dica. Avete una camera prenotata a nome Jenkins? Un attimo. Dunque... no, mi dispiace. Non c'è niente a nome Jenkins. Ma è sicura? Può controllare di nuovo, per favore? Certo. Ma scusi, come si scrive? Sara, come si scrive il suo cognome? I'm sorry? How do you spell your surname? With J? Yes, exactly. J-E-N-K... Allora, Ilunga E-N-K and then? I-N-S. I-N-S. Ah, con la Ilunga e la K. Sì, sì. Certo, Sarah Jenkins. Sarah con l'H, giusto? Giusto. Meno male. Is there a problem? No, no, no, no, no. No problem. Nessun problema.